Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, eccoci, caro Oscar. Lo so, dillo che il giorno è che oggi, lo so, dillo che è il oggi. Il giorno che è venerdì, signori. Figurati. No, perché non ero abituato, perché pensavo fosse mercoledì oggi. Ecco, lo so, settimana avendo più corta di quella dei 5 Stelle. Esatto, una settimana ipergrillina. Non... Vabbè, non avevo capito. Invece no, è venerdì e quindi si lavora anche pomeriggio, domani. Settimana prossima, sai che lunedì è il primo maggio. Che quindi... disastro, che disastro. E così si abbassa il PIL. Quella è la settimana proprio grillina, 4 giorni. Eccoci qua. Ma infatti, la decresce. Città infelice, questo è vabbè. Lavorare meno di tutti, questo, perché poi questo è riusciamo meravigliosamente, come scrivo oggi Pane Bianco, siamo un paese che guardiamo all'estero tutte le cose che dicono come funziona meglio, poi non lo facciamo, questo è tutto, però vabbè. 28 aprile, in questo 28 aprile che è la giornata mondiale della sicurezza sul lavoro. E come sai come si accresce la sicurezza sul lavoro? Basta non lavorare più e tutti sicuri siamo. Per esempio, questa potrebbe essere, qualcuno se la inventa di sicuro dei tempi che, sui tempi che corrono. Ma io voglio dire, cari amici sardi in ascolto, che sono fiero di essere tra i pochi a ricordare che oggi è la vostra festa nazionale come popolo sardo, perché oggi devi sapere, Alessandro, che è Sadia de sa Sardigna, è una legge regionale sarda del 93 che l'ha fissata per ricordare che appunto il popolo sardo ha una sua festa. E sai cos'era questa festa? È il ricordo di quando nel 1794 cacciarono i funzionari dei Sabaudi dalla Sardegna. Sei contento, sono cacciarono i vespri della Sardegna. Stato. Dai, cacciano lo Stato, sì, e siccome non si ricorda nessuno Italia questa faccenda, perché oltretutto avevano due volte ragione, perché si incavolarono, perché avevano respinto i francesi nel 1693 i sardi, si aspettava un mimo di riconoscenza e qualche diritto in più dai Savoia, e invece niente. Allora dissero: ve ne andate pure voi, mi sembra una di quelle coerente. Nazionali dal basso, intesa come nazione sarda, che forse dovrebbe essere nei libri di scuola ricordata, invece non la ricorda nessuno. Chissà come mai nei libri di scuola si ricordano le concessioni dei monarchi eccetera, ma le cose chieste dal basso, chiedetevelo come mai non ci sono. No, o meglio, c'è solo quella francese, la rivoluzione russa, ma invece i diritti dei sardi, ecco, lo so, inizio di puntata vabbè, non ti aspettavi, però vabbè. Oggi San Vitale e che insieme a tutta la sua famiglia, tu sai, la cattedrale di Santa di Ravenna è dedicata a San Vitale. E perché? Perché tutta la sua famiglia nel III secolo erano cristiani. Venne passata a fin di spada, compresa la moglie Valeria, quindi Valeria e Vitale si ricordano oggi, e anche San Pietro Chanel. San Pietro Chanel non è un marchio di moda, ma è il primo martire nell'Oceania, era un sacerdote francese che però alle isole Figi fu ucciso dagli indigeni nel 1841. Oggi è l'anniversario, tra l'altro, anche dell'ammutinamento del Bounty, quindi oggi è una giornata, come vedi, dove il sangue va un pochino alla testa. Oggi è l'anniversario della fucilazione di Mussolini nel 1945. Oggi, pensa, è l'anniversario, oggi De Gaulle prese una decisione storica. Sai perché? Perché abbiamo fatto un referendum costituzionale e i francesi l'avevano respinto sui poteri del Senato e delle regioni, e lui decise di mollare la politica. Vedi, altri tempi, altri politici, quando si perdeva il referendum costituzionale c'era chi andava a casa davvero, non come in Italia. Chi ti fa venire in mente questo? Non te lo dico, ma tu mi hai capito perfettamente. Vabbè, penso che anche gli ascoltatori capiscono Ti stia riferendo. Sto parlando di De Gaulle. E nel 2000, proprio oggi, gli olandesi di KLM mandavano a quel paese l'accordo con Alitalia, e la storia darà stagione a KLM. Ma invece tu hai visto che oggi Augusto Fantozzi, che ha fatto il liquidatore della compagnia pubblica, vuole rifare il liquidatore di nuovo della compagnia pubblica, quindi chiede che Eni ed Enel mettano soldi, perché lui dice che sono meglio di Ryanair quei cattivoni che chiudono le rotte se sono in perdita, capisci? Augusto Fantozzi, questi sono gli illuminati che lo Stato ha messo a gestire cose pubbliche. Fantozzi, ma per favore, non ci fare ridere. Insomma, la questione all'Italia, vediamo. Ma io ho visto che anche la leader della CISL, Furlan, in un'intervista ha detto: è stato forse un errore affidare il referendum e dunque il piano, come dire, bocciare il piano di industriale di ricapitalizzazione ai lavoratori. E poi c'è un po' quel pentimento postumo un po' di tutti quelli che hanno fatto il discorso sulla Brexit, ti ricordi? Ma come affidare al popolo il concetto di Brexit? La questione è che io l'ho scritto dal primo giorno sul referendum all'Italia, che ha davvero chiesto, lo ricordiamo voi, i nostri ascoltatori, sono stati in primis Intesa Unica, cioè i soci azionisti, perché dicono: noi non ci fidiamo della rappresentatività delle sigle sindacali. Certo. E purtroppo, come si vede, il dubbio sulla rappresentatività aveva un fondamento. Cioè, questo referendum ci parla della crisi della rappresentatività del sindacato, c'è poco da fare. E naturalmente è anche vero che la colpa dei disastri ricorrenti nella storia pluridecennale non è dei dipendenti, ma è di chi gestisce prima lo Stato e poi i privati. Comunque, Oscar, noi dando il numero di telefono, che è il solito 800 24 00 24, oggi parleremo un pochino più avanti di legge elettorale, ma state tranquilli, non vi facciamo addormentare, perché avremo ospite. Me li respingi tutti. No, quel senatore Torrisi, che presiede la commissione affari costituzionali, dove si dovrebbe fare tutto, ed è colui che è stato eletto, ma non doveva essere lui eletto. Doveva essere lui. E però non si vuole dimettere. Se è stato eletto, è stato eletto. Secondo qualcuno non doveva essere. Ah, eletto. Sempre secondo quel qualcuno libero. Però in realtà prima vogliamo parlare di un tema molto molto sentito. La notizia di cronaca è che ci sono due genitori che sono indagati per omicidio colposo a Padova, perché la loro figlia, che purtroppo si ammalò di leucemia a 17 anni ed è morta, Eleonora, insomma, si è sempre rifiutata. Pare anche lei, ma secondo la procura, anche perché quando da minorenne evidentemente era condizionata dai genitori, di fare le chemioterapie, insomma le cure mediche. Si parla di questi due genitori come seguaci delle teorie di Hammer, le cosiddette teorie hameriane, quindi il rifiuto delle chemioterapie, le cosiddette cure, mettiamolo tra virgolette, alternative, perché non sono cure scientifiche. E questo è il dato di cronaca. Con noi abbiamo un medico, è un ginecologo, è anche autore di libri. L'ultimo è Salute, bugie e il business della salute, ed è anche il creatore di un blog conosciuto secondo me da molti con il nome di MedBunker. No? Perché su questo blog lui denuncia anche i ciarlatani della salute, diciamo così. È Salvo Di Grazia che è con noi. Buongiorno, dottor Di Grazia, grazie dell'invito. Buongiorno a voi. Questa vicenda di Padova ovviamente non la possiamo commentare se non facendo una considerazione generale, forse. Sono davvero tante le persone che seguono le cosiddette cure alternative? No, in realtà non sono tante, fortunatamente, perché grazie al cielo in ospedale riusciamo a offrire un servizio, diciamo, a chi ha bisogno sicuramente efficace, quindi la gente ancora si fida della medicina. Sono tante relativamente, nel senso che qualcuno è affascinato da queste teorie e purtroppo si lascia un po' incantare, perché oggi con internet l'informazione è talmente rapida e veloce che raggiunge tutti e tutti ci cascano, ci credono. L'informazione di internet ha ragione, è rapida, veloce, arriva immediatamente, ma vuol dire che però mancano i fondamenti per poter interpretare qualunque informazione. Questa cosa ci rivela e ci conferma le lacune della nostra formazione pubblica, l'antiscientificità, cioè l'incapacità molto diffusa di saper fare una semplice operazione di interesse composto prima ancora che di capire di medicina e di scienza, deriva dalla scuola o no? È un dato, sì, cioè, è vero che c'è una base un po' di ignoranza scientifica generale, però è anche vero che è istintivo un po' lasciarsi incantare dalle sirene, no? Dal miracolo, dalla presunta magia medica. Tutti questi ciarlatani promettono successi incredibili che vanno contro ogni previsione, quindi vuol dire è anche un discorso un po' istintivo nel momento di debolezza. Quindi lei dice paura prima ancora che antiscientificità? Assolutamente sì, cioè è chiaro che pochissimi hanno la preparazione scientifica per capire se una cura abbia le possibilità di guarire o meno. e tanti di noi ovviamente nel momento del bisogno si aggrapperebbero, ed è assolutamente giustificato, a qualsiasi cosa. C'è un profilo della persona, della persona tipica che si affida, che diciamo abbandona la scienza, la medicina, e si affida alle cure cosiddette alternative? Vabbè, contrariamente a quello che si pensa, la persona tipica, quello che almeno esce fuori così dai sondaggi e dalle inchieste sociologiche, è proprio la persona che ha una cultura superiore, cioè ha un minimo di cultura, perché io credo, questa è invece la mia opinione, che la persona che abbia magari un livello sociale meno elevato si fida un po' dell'istituzione, no? Cioè dice quello che mi dicono di fare io faccio. La persona che invece ha un minimo di preparazione si sente quasi consapevole, ovviamente non può essere perché ognuno ha le proprie preparazioni, e quindi va contro ciò che è ufficialità. Se uniamo a questo un po' la sfiducia che c'è generale, diciamo, verso l'istituzione, questo è un cocktail che non aiuta, ecco. Beh, interessante, cioè più si è acculturati, più si legge, magari si legge, ci si abbevera anche su internet, più si presume di se stessi, più si presume di se stessi, e più si ha il dubbio che ci sia in qualche modo, se ho colto bene, dottore, sì. C'è anche fatto che storicamente è fondatissimo, ci sono tonnellate di letteratura storica e sociale su questo, sul fatto che magari più in basso voglio dire nella piramide dei redditi, che coincide con quella poi purtroppo dell'istruzione, no? C'è un meccanismo di delega che voglio dire costitutivamente, istintivamente più innato, appunto di un atteggiamento verso, lei diceva verso le istituzioni, ma è proprio una questione di delega sociale, mentre invece su ovviamente c'è un po' più, c'è anche questo aspetto, cioè la storia pesa. Sì, assolutamente, ma se ci fate caso è un po' un'illusione, no? Perché io, anche se fossi la persona più colta del mondo, ovviamente posso conoscere gli argomenti di cui mi occupo, sì, cioè io certo. Sono un medico, non potrei mai costruire un ponte, però magari da medico qualcosa di matematica capisco, e quindi forse un ponte potrei costruirlo, e poi magari questo ponte crolla. Ovviamente su questo blog MedBunker ci sono tante teorie cosiddette alternative, comunque tante cure di ciarlatani che sono smascherate, ce ne dice alcune, io ricordo, io l'ho anche intervistato per la verità, mi ha colpito molto, per esempio Salvo Di Grazia racconta che è stato criticato, accusato ferocemente quando ha detto che per curare il dolore della dentizione dei bambini, l'ambra e le collanine d'ambra non servono a nulla, sono delle, come dire. E lì che è successo, Di Grazia? No, e poi sembra anche una banalità, cioè non credo di aver svelato una verità scomoda. No, è chiaro. Sì, però questa cosa è molto diffusa tra le mamme che magari con il passaparola si consigliano: sono delle collanine con delle pietre di ambra, che è una resina abbastanza conosciuta, usata come pietra così decorativa, perché quest'ambra avrebbe delle proprietà, diciamo, calmanti, che ridurrebbero i fastidi della dentizione dei bambini. In realtà ovviamente non c'è nessuna proprietà, perché queste collanine sono fatte di pietra e non rilasciano nessuna sostanza. Ebbene, quando lo dissi, ma in maniera molto così, quasi ingenua, scatenai il panico delle donne che cominciarono ad accusarmi di essere stato corrotto dalle lobby, del farmaco. Dica la verità, lei produce ambra, l'antidoto all'ambra. Sì. Sì. Ma la cosa che mi ha sconvolto, perché in realtà pensavo di aver detto una cosa anche abbastanza banale, ecco, nulla di... No, di però lei ha toccato un punto, non lo devo dire a lei, la voglio invitare a dirci qualche cosa su questo. Perché è uno dei moltiplicatori degli aderenti alle tesi, diciamo così, ipersemplificate di stampo fantascientifico al posto della scienza vera, quella del rilievo che nella testa degli adepti e dei guru predicatori ha l'argomento Big Pharma, cioè mi vogliono convincere a terapie, a diagnosi eccetera eccetera, perché dietro c'è l'oppressiva regia del Big Pharma, le multinazionali che più vi curate più fanno soldi eccetera eccetera. Questo è un argomento, nella mia modesta esperienza di giornalista prima che di paziente, che quindi si occupa di questo anche perché è toccato nel vivo, ma enormemente di presa questa faccenda. Sì, che tra l'altro nel libro Salute e Bugie Di Grazia non è che sconta tanti favori alle multinazionali, appunto, quando appunto, hanno qualcosa che magari sulle quali bisogna porre il dito come criticità, o no, dottore? Sì, ma guardi, l'influenza dell'industria farmaceutica è accettata e quasi ovvia, visto che l'interesse delle aziende farmaceutiche è quello di guadagnare, quindi c'è sicuramente una pressione, però appunto anche nel libro. Il problema è quello che quando la gente si affida al ciarlatano per sfuggire a chi magari è corrotto, a chi magari pensa al guadagno, non è che faccia una fine migliore, ecco. bisogna mantenere un attimo la razionalità in questo senso. Sì, cioè, sì. Il divorzio schiacchi almeno è sottoposto a controlli o della comunità scientifica o delle nazioni e ovviamente l'industria ufficiale. Sì. Adesso la sentiamo un po' male, dottore, magari il collegamento è andato via un attimo, ma adesso il telefonino vediamo di metterlo a punto. Senta, è anche notizia di ieri dell'arresto di Vannoni, c'è anche quest'altra questione delle cure a cui molte persone si affidano che non seguono il canone, il metodo scientifico. E qui però il tema è anche molto delicato, perché ci sono persone che rischiano la vita, in alcuni casi poi perdono la vita per affidarsi a queste cure. Come la mettiamo? Anche lì il caso di Vannoni è eclatante, se fate caso rispecchia un po' quello che succede in Italia, ma in tutto il mondo ogni tanto, ogni 10 anni, ci fu Di Bella, ci fu Bonifacio prima, dopo Vannoni. La cura miracolosa che guarda caso migliora le malattie più gravi e più terribili, scoperta quasi per caso e che funziona quasi sempre. In realtà è anche lì un caso di vendita, di illusioni, che forse dopo qualche anno è finita anche con l'arresto di Vannoni, però voglio dire, purtroppo queste cose, come ho detto, non è che spariranno, ecco. Non è eliminare il singolo guru che farà sparire queste cose, perché fanno parte della nostra cultura. Però lo stregone è sempre esistito. Nel caso di Vannoni, con un protocollo praticato anche in un pezzo di sanità pubblica, ecco, questa è la cosa che rispetto ad altri paesi, tutti i paesi conoscono questi fenomeni, come giustamente ricorda lei, diciamo, sì, non proprio tutti spalancano le porte degli ospedali pubblici a questo. Per esempio negli Stati Uniti c'è una storia simile di una cura assolutamente ciarlatanesca contro i tumori, che è finita anche negli ospedali, poi è stata tirata fuori. In realtà queste cose hanno sempre delle complicità, ovviamente, cioè se qualcuno è complice fa entrare queste cure negli ospedali pubblici, ovviamente uno scandalo, perché in ospedale pubblico preferisco avere cure perlomeno accertate scientificamente. Lì ci furono delle evidenti complicità, credo che ci sia stato anche un processo proprio delle attività accertate. Qual è, visto che lei le tiene sotto controllo, anche per concludere, di grazia, qual è la cura verso cui, che non scientifica, verso cui gli italiani ora sono più orientati? Cioè quella che secondo, dal suo punto di vista scientifico, più la spaventa, perché c'è un numero di italiani che la segue. Restando fermi sul fatto che non c'è un numero elevato di italiani che la segue, io credo che quella cosiddetta di Hammer, questi americani, rappresentino quasi una setta, quindi davvero una cura che deve far paura, perché tende a isolare il paziente dalla famiglia, dal mondo che lo circonda, quindi è molto molto pericolosa. Ovviamente non è una cura scientifica per niente, no, certo. Bisogna fare molta attenzione. Sì. Questo assolutamente, però è quella che più non è molto seguita, però fa paura, perché sì, è abbastanza delirante, perché lì si entra nel discorso psicologico, cioè, l'americano ti dice di non curarti, ecco. Assolutamente, devi capire qual è il tuo trauma interiore e guarirai da solo. Quindi è davvero guarirai da solo. E vabbè, no, io invitiamo a leggere questo libro di Salvo Di Grazia, edito da Chiare Lettere, Salute e Bugie, perché è interessante, perché io l'ho letto, ripeto, poi se c'è da fare anche qualche critica alle aziende farmaceutiche, Di Grazia le fa, quindi non può essere accusato assolutamente di essere al soldo delle multinazionali, però questa è l'accusa, Oscar, lo so, più semplice, lo so. Anche noi probabilmente dopo questa intervista saremo, sì, tacciati di essere accusati. C'è una nostra cara ascoltatrice, intanto la ringraziamo, Di Grazia, c'è una nostra cara ascoltatrice che ci ha scritto sui vaccini e che ci segue sempre, ha detto che dopo che, insomma, io ho fatto un'intervista, sì, a uno storico della sapienza sulla verità, dicendo che i vaccini, c'è un'unica verità scientifica, ha detto che delusissima. Perché non si aspettava che non ascoltassimo anche l'altra campana, come se nella scienza ci fosse l'altra campana. L'articolo 21, sì, capisci? Sì. La scienza democratica, cioè la scienza si risolve con i soviet, non con la peer review, che boccia tutto ciò che non ha avuto inoppugnabili conferme sperimentali. Ricordiamo, questo è il metodo attraverso cui si selezionano i paper scientifici, che sono la base per poi poter fare, dopo anni di sperimentazione, arrivare nei protocolli medici. Ecco, la medicina, in effetti, come tutte le scienze, non è un soviet. Esatto. E qualcuno dice non è neanche democratica, cioè se la Terra è rotonda non è che dobbiamo ascoltare le tesi di chi dice che la Terra è piatta e metterle a confronto e ascoltare Par condicio, stesso numero di minuti, secondi. Non è politica, ecco, non sono opinioni. Non sono le primarie del PD, la scienza non sono le primarie del PD. Direi che questa è buona sintesi. Sì. In ogni caso c'è Mauro che ci chiama. Mauro, buongiorno. Buongiorno, da dove ci chiama? Dalla provincia di Pisa. Ci dica. Allora, io volevo porre un dubbio, non so se ho gli strumenti per porlo nella maniera giusta. Io non credo ai ciarlatani, siamo d'accordo, credo molto nella medicina occidentale, siamo d'accordo, però mi domando se da altre parti del mondo, Oriente o ditemelo voi dove, altri tipi di cure ottengono risultati misurabili, ok? Perché non implementare la nostra medicina, il nostro approccio con quello anche di filosofie diverse? Non sto parlando di credere alle favole, sto parlando di alcune cose che possono avere evidenti riscontri. Se un sistema funziona perché ottengo dei risultati, come li ottengo finché sto dentro i paletti della legge? Mi sembra un po' trascurabile. L'importante è che funzioni, l'effetto placebo, quello che sia. Io non sto dicendo che bisogna credere a Vanna Marchi o chi per lei. Questo meno male. Sto dicendo che magari un approccio diverso, perché nati in culture diverse, sì, è meno criminalizzato. No, io non sono un medico, quindi non posso rispondere neanche a Oscar. Però insomma, sì, si pensa, non so, alle culture cinesi, per esempio orientali, non so, l'agopuntura, la fitoterapia, ci sono delle culture. Però, ripeto, qui non stiamo parlando delle ipotesi che stimolando terminali periferici nervosi, perché l'agopuntura è questo, no? Si possono inibire sensazioni di dolore o migliorare l'efficienza o l'autodiagnosi addirittura di alcuni organi del corpo. No, noi stiamo parlando del fatto che ci sia una negazione radicale dell'impostazione medico-scientifica della diagnostica e terapeutica. Gli americani, quelli che hanno fatto morire la diciottenne, questo hanno fatto, hanno detto alla figlia. Quindi non stiamo parlando della necessità di essere aperti al mondo, stiamo parlando del fatto di chiudersi alla realtà sperimentale, documentata. Anche se il punto delicato sul quale anche l'avvocato, avete sentito in un giornale radio, è che insiste, è che questa ragazza era lei per prima a rifiutare le cure, e questo è scritto in Costituzione, cioè la libertà di chiunque, ecco, per Costituzione 32, che sta che ha aperto adesso. Fu scritto quando non si capiva, non si immaginava gli sviluppi della tecnica, della scienza medica e farmaceutica. Adesso che invece ci sono stati questi sviluppi, grazie al cielo, si apre da una parte la strada per il testamento delle ultime volontà, e dall'altra gli si impugna per il diritto di morire in nome del fatto che non mi curo. Però quello è un principio, voglio dire, in Costituzione, secondo me è sacrosanto. Cioè, no, di fronte a qualsiasi terapia proposta ci vogliono i consensi da firmare. Assolutamente, questo sono completamente d'accordo. Quindi se la questione non ci sarebbe di cronaca se questa ragazza diciottenne avesse di sua volontà accertata, palese, detto io rifiuto la chemioterapia, siccome invece secondo la procura c'è stato, come dire, un meccanismo di induzione fortissimo, esatto, da parte dei familiari, esatto. Questo è. Allora andiamo un attimo in pubblicità e poi rientriamo con gli ascoltatori tra un attimo. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, le 8:42 minuti, sono tanti ascoltatori. C'è Claudio da Roma. Buongiorno Claudio da Roma, ce ne sono due, iniziamo da Roma, poi andiamo a Bologna. Salve, buongiorno a voi. Volevo dire solo una piccola cosa sul discorso della cura ameriana e tutto quanto. Secondo me, da cittadino, da padre, il bambino di 3 anni, molte persone ricorrono a questi, chiamiamoli metodi, dettati anche dalla disperazione, perché per esempio, prendiamo il caso scoperto da Striscia la Notizia più di qualche anno fa, di quel presunto medico, se non vado errato era filippino, che praticamente si vantava di estrarre le malattie solamente con le mani, che poi è stato smascherato. Purtroppo sono dettagli, claro, anche... Come ci diceva Di Grazia, gli stregoni sono sempre esistiti, quelli moderni... Stregoni, secondo me, gli stregoni nascono dal fatto che le persone che si curano, dopo un po' si vedono abbandonate, nel senso ti dicono hai un cancro, purtroppo il tuo destino è morire, come la storia ci insegna nessuno di noi vuol morire, tutti siamo attaccati alla vita, ok? Quello che ci contraddistingue dagli animali, noi siamo tutti attaccati alla vita, perché a tutti noi dispiace lasciare un figlio, una moglie, gli amici e tutti quanti, quindi arriviamo per la disperazione anche ad attaccarci a queste cose. Differente ancora, per esempio, sono le culture, chiamiamole religiose, che rinunciano alle cure mediche. Esempio, per esempio, prendiamo i testimoni di Geova, che si dice che non i testimoni di Geova praticanti a tutti gli effetti, sì, non fa uso di no, ma lei ci pone una questione, Oscar. Io poi di cose personali, come sai, non amo mai parlare, però mia moglie non ha mai abbandonato fino all'ultimo secondo la medicina per disperazione, perché, come dice Claudio, a un certo punto ti dicono guarda che non c'è più niente da fare. Certo che c'è la disperazione, ma voglio dire, la fine della vita c'è per tutti. Ci sarà per tutti. Condivido integralmente quindi quello che stai dicendo, e avendo un'esperienza anche come volontario anni fa, e questo è una buona pratica diffondere, secondo me, la mia convinzione umana personale, non dico che non sia pronto a confrontarmi con quella degli altri, ma il cammino nostro da uomini che finiscono e donne che finiscono è quello di battersi per vivere con dignità fino all'ultimo giorno che hai, il possibile consapevole. Io non credo al fatto di non sapere da parte del medico cosa ti aspetta, ma dall'altra parte diffondendo intorno a noi la convinzione e gli strumenti per capire che la strada della cura, della diagnosi, della terapia scientifica è una strada che avanza sul risultato. Esatto. Se oggi, in pochi decenni, cari ascoltatori, per moltissime forme di cancro, la percentuale di sopravvivenza e di durata di vita degna da continuare a compiere, malgrado il fatto che magari non si sconfigge il cancro, ma lo si affronta per anni, entrambe le frontiere sono molto avanzate grazie a centinaia di migliaia di ricercatori, grazie purtroppo anche all'esperienza di centinaia di migliaia di pazienti, ma è la strada che in poco tempo ci sta portando a sconfiggere alcune forme di cancro, ed è così, bisogna sapere che i numeri dicono questo. C'è Giorgio da Padova. Buongiorno. Ho sentito anche l'ultimo ascoltatore, mi sì. Permetta, io ho perso entrambi i genitori per cancro, e non è vero che si è abbandonati quando si è, anche quando c'è la disperazione, bisogna, come dicevate voi, accettare quella che è la nostra vita finché si finisce, accettarla, accettare che non si deve andare poi in mano a ciarlatani, perché quando c'è la disperazione, secondo me i ciarlatani, le cure alternative vengono, ti bussano alla porta, si è appunto anche attratti a dire provo, se sei in una situazione di estrema debolezza, e quindi essendo in una situazione di estrema debolezza purtroppo esposti al rischio che queste persone, insomma, se ne approfittino, diciamolo francamente. Però insomma, noi abbiamo promesso, ci sono anche altri ascoltatori, abbiamo promesso però che parleremo anche un pochino di politica. Cambiamo un po' registro, Oscar, in questo finale di puntata, perché è ritornato dopo il monito, cioè, si dice così, il monito. Aspetta, ma sì. Il vincolo del passaggio dal primo al secondo tema è la malattia o i ciarlatani, parlando del politico? No, volevo sapere. Dopo il monito, si dice così, del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha detto la legge elettorale va fatta subito, è ora un gran fervore di accelerazione. Si è capito quello dai giornali, di accelerazioni, ripartenze, retromarce, si farà, non si farà. C'è un personaggio politico che era stato al centro del dibattito un mese fa, ci perdonerà se per noi era considerato un po' un carneade fino a un paio di mesi fa, il senatore Salvatore Torrisi della Politica, non certo una persona che conoscevamo come famosissima. Buongiorno senatore. Buongiorno, ascoltatori. Da quando è diventato presidente della Commissione Affari Costituzionali, eletto, ricordate la vicenda con Renzi che dice ma non era il nostro candidato, non era quello del PD. Però l'hanno eletto. È stato l'hanno eletto. È stato io eletto. Difendo il diritto dell'eletto a fare il suo È stato compito. Eletto, mica ha rubato i voti, è stato eletto regolarmente. Presidente Torrisi, perché dalla sua commissione passeranno un po' tutte le proposte. È un crocevia essenziale. Esatto. Intanto lei conferma, non si dimette. No, ma mi pare che, insomma, come da tutti riconosciuto, dinanzi a un voto democratico del Parlamento, mi pare che nessuno può mettere in discussione la legittimità. Io sono rispetto alle istituzioni, sì. Mi pare che in quel caso qualcuno ha sbagliato, ha tentato di invadere il segretario di partito, vogliono abolire il libero voto dei parlamentari. Il segretario del suo partito, Alfano, Alternativa Popolare, ha detto lei si deve dimettere. Però credo che la polemica è chiusa, quindi non abbiamo. È chiusa, basta. Conviene, insomma, entrare nel merito invece dell'attività che il Parlamento, in questo caso sulla legge elettorale, si comincia dalla Camera, deve svolgere per dare al Paese, ai cittadini italiani, una legge elettorale che coniughi rappresentanza con governabilità. Ma secondo lei esiste davvero un concreto sentiero? Perché ieri abbiamo sentito il professor Dalimonte, il professor Ceccanti, da punti di vista però due, insomma, autorevolissimi contributori alle riforme, e hanno detto no. No, secondo me sì, cioè, nel senso che è doveroso, e credo che il Parlamento farà di tutto per fare in modo che venga fuori una legge elettorale. È ineludibile questo, quindi ha fatto benissimo il Presidente della Repubblica a richiamare la necessità di un intervento legislativo. Ma il Presidente della Repubblica giustamente, cioè, fa notare che con questa legge elettorale nessuno governerà, e quindi fa il suo ruolo. Ma tanto ma ricordiamo Napolitano è stato rieletto perché non si rileggeva nessuno, e andò il primo giorno in Parlamento dopo la rielezione a dire praticamente siete stati incapaci di fare una legge elettorale per non so quanti. Cioè, dobbiamo ricordare le cose in modo completo. In verità una legge elettorale è stata fatta, che si chiama Italicum, che però era stata fatta soltanto a misura di una sola Camera, nel presupposto sbagliato che il Senato dal referendum scompariva, col referendum costituzionale. E poi è intervenuta la Corte Costituzionale, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'Italicum. Una legge c'è attualmente, anzi ci sono due leggi che disciplinano che però lei ci insegna due leggi però produrrebbero in questo momento, perché sono che nessuno governa. Allora bisogna fare in modo che ci sia un intervento legislativo che rendi omogenei i due sistemi elettorali in modo tale da assicurare la governabilità, e questo è il compito che deve fare il Parlamento. C'è un percorso più facile, che è quello di considerato che c'è una sentenza della Corte Costituzionale che sull'Italicum è intervenuta, e quindi oggi l'Italicum così corretto non avrebbe profili di incostituzionalità. Il percorso più semplice è quello di portare l'Italicum, trasferirlo con correttivi sulle soglie, sul voto di genere, sui collegi, sui capilista, trasferirlo al Senato. Diversamente, se le forze politiche hanno la capacità di interloquire, di trovare soluzioni di sistemi elettorali diversi, possono essere valutati un'alternativa. Sì. Vabbè, insomma, mi pare che il percorso sia il percorso segnato. C'è, staremo a vedere, Presidente Torrisi. No, io mi ero perso il passaggio del fatto che era chiusa la polemica con Alfano, ma nel senso che non chiede più. La considero chiusa, guardi. No, nel senso che non le chiede più di dimettersi. No, ma me la sono persa io per gli ascoltatori. Piuttosto che i fatti interni, interni ai partiti, esterni al Parlamento, preferisco non parlare del lavoro che si fa in Parlamento. Va bene, questo va della credibilità delle istituzioni. Allora, buon lavoro, il percorso sarà lungo ma anche stretto, perché lungo o neanche tanto lungo, perché Oscar si va a votare comunque a fine legislatura, nel 2018 ci sarà. Comunque. Però e Mattarella quindi... ieri per esempio c'erano quotidiani come La Stampa che interpretavano, Mattarella dice chiaro, sono autoapplicative le leggi, come dice la Corte Costituzionale, cioè si può votare malgrado siano pieni di difetti, sì, ma il Quirinale dice però non vi aspettate che io vi faccio votare prima, se non intervenite. Senti cosa ti mette Oscar. Lo so. Sai chi è questa? Ma dai, ma insomma ragazzi. Ma Samantha Fox, siamo Renzi a tributare... ha confessato di avere il poster di Samantha Fox. C'erano alcune circonferenze che vi attiravano, diciamo così, ecco, se posso esprimere una battuta. Io avevo il poster di Samantha Fox. Adesso stiamo parlando di musica commerciale, ma noi non... Dietro la non porta, era, così mia mamma non lo vedeva benissimo. Per la tecnica compositiva, per la melodia di questi quattro accordi, era altro ad attirarvi, lo sapete. Touch me now. Ecco, appunto. No, ragazzi. Ma neanche, voglio dire, proprio gli ormoni dei ragazzini. Attenzione, proprio. Dobbiamo svelare che Oscar aveva come poster Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Che, come si vede, io Samantha Fox. Io ero già grande, perché da piccolo, finché sono stato a casa di mia madre, col cavolo che poteva avere un poster, mia madre mi svitava la testa. Soprattutto di Samantha Fox. Ecco, di Samantha Fox lasciamo perdere. Dai, dai. Ma ti lasciavano... le tette di Samantha Fox appese? Il post. I genitori? Il post. Sì, però era dietro la porta. Poi vedi, nel finale diceva anche touch me in modo un po' lascivo. Mia madre sarebbe intervenuta con l'aspersorio e il manganello. Cioè, l'aspersorio in una mano e il manganello nell'altra. Va bene. A lunedì! Urliamolo tutti insieme, Milan, è venerdì!